e K, io te lo appoggio, Io te lo spingo, D'accordo. Ok, a posto. Andiamo bene, dai. Ok, va bene. Va bene, va bene. E va che bu. Aspetta, va, andiamo a aspetta. Parlo di oggi. Mamma mia, chi è, chi è? Ora, 1, 2, 3, perfetto. Adesso sì, adesso sì. Positivo, no, ero acceso la radio, però siccome ieri ero impegnato da ieri mattina presto qua, capito, nel mio magazzino che stavo facendo delle cose, dai, delle cose che un giorno le ha viste anche Gio Maria Pese, capito? Stavo facendo di quelle cose, cioè avevo le mani occupate, ero nascosto, non potevo, no, infatti non sono entrato per nulla perché ero impegnato io e mio figlio, stavamo facendo questo lavoro qua, capito? E non sono in ascolto, capito? Ecco perché non so che sei uscito. Salutoni Mario, salutoni, riprendete che sto mettendo a posto una cosa qua, dai, riprendetela. Adesso io sto uscendo, lui. Non lo so, io ti ascolto benissimo. No, io sono mica, quello che c'ho più di 30 anni, capito? C'è soltanto 23 canali questi qua, e boh, e il 24 alfa. Sì, a te cosa... quando parliamo in verticale è la stessa cosa, capito? Ti fa la stessa voce tua quando parliamo in verticale, a volte i microfoni e cose cambiano un po' la voce, invece questo c'è proprio la voce, la timbrica, la voce tua quando parli in verticale, capito? Ok, meglio così, ogni tanto va bene, no, ho dato una spruzzatina di energia al microfono, a qualche leggettina che c'è. Ah no, perché non mi funzionava tanto bene, capito? Un sacco di anni senza pirlo, io non apro a chi non è l'arte mia, capito? Però ha funzionato sempre bene. Positivo, positivo. Allora, questo apparato sta funzionando, glielo torniamo e se lo rimette in cambio. Niente, no, l'avevo portato da Giancarlo, c'aveva un problema, però Giancarlo mi ha fatto il coso, tutto ok, tutto a posto, e lui mi ha tornato indietro e dice no, non funziona, forse lui ha toccato questi tasti, queste cose, infatti io mi sono accorto che era in FM, capite, stavo, no, non va bene, perché sembra che stia funzionando. Quando ci fai non lo sapete da parte mia, a Giancarlo, a parte di Mario, glielo spieghi tu. Quella questione sta andando sempre bene, è un bombò. Ringraziato per tutto. Ma la questione Luigi Vulcano. Se tutto va bene, ci devo passare, se faccio in fretta, domani sono in quella zona lì, e ci devo passare, c'è una cosina da ritirare, un'altra cosetta da portare. E ti dico, se domani ci passo, guarda, te lo saluto da parte tua. Attenzione Luigi Vulcano. E fa dato tu sì. No, negativo, sono Antonio, sono. Antonio, ciao Antonio, mannaggia. Sembravi coso, patatone, cavolo. Trappa, Luigi, come mi senti con questo apparecchio? È presente a patatone, preciso. Vero, preciso patatone, sono. Si parla di patatone, cavolo. No, sono io, Antonio, sono, dai. Come ti arrivo di modulazione? Com'è? Anto, un controllo non te lo posso dare perché c'ho un apparato di quelli piccoli, di un amico, no? E c'ha quelle tacchette, ma non mi hai capito, non c'è la lancetta per segnare, capito? No, mi interessava la radio. Comunque buonasera a Mario, mi interessava la radio. Scusa Mario un attimino, la radio, se vuoi a dirti la verità, come dice Mario, non mi piace più di tanto, la radio non è tanto buona, ed è radio che non è buona. Ciao, dimmi Mario. Guarda, anche lui, tu lo sai, da apparato a apparato anche, da baracchino a baracchino, io come radio lo sento bene. Benissimo, lo sento, quello dipende da baracchino a baracchino, intanto l'ho guardato Santiago, tu, e in avanti di 1090, dove sei? Capo, io sono con la macchina, 1, 2, 3, prova radio, gaba. Guarda, mi arrivi un Santiago di 7-8, mi arrivi, capito, però adesso è un po'... pochettino, forse ti ha avvicinato i mic troppo la bocca, no? E non vorrà rauca. E cappa, dai. No, guarda, c'è lontano adesso, dai. Già va bene. Ma Vabbè, ricontinuate, riprendete il vostro QSO, scusate se avevo, vi ho disturbato, eh. Papà, vedi che si vuol se ascolti noi almeno, vai. È positivo, buonasera a tutti, buonasera anche a te, per fa. Scusa che ripeto, Antonio, in questo ultimo passaggio che ti sia allontanato il microfono dalla bocca, la cosa era molto più positiva, era bella la radio, capito? Col microfono lontano dalla bocca era bellissima. Per capo, così va meglio, dai. Ok, mica c'è Babbo mi dà l'altra fondazione. Sì, l'ho sentito e l'ho salutato. No, volevo riferire. Pierpa, ho chiamato e gli ho detto il tutto, si è segnato tutto, quello che abbiamo parlato per quella radio famosa, hai capito che lì dal dottore. L'ho chiamato e gli ho detto tutto, va bene, cioè, lo squeccio deve operare per forza, no, per riferire ci vuole per forza lo squeccio, perché uno dei due ha messo, diciamo, dai, per la regolazione dell'eco va messo uno di quei due lì, per forza, obbligatorio, capito? Però non so per i valori che c'ha, non so che cosa, il potenziometro, cose. Poi invece l'altro potrebbe metterlo invece le cose del refrig, aiutami a dire, per regolare il vatti dove c'è le cose delle stazioni, come si chiama, lì lo può mettere adesso. Non lo so, ho capito, sì, va bene, si vuole. Ma in opera? Allora, mi ha garantito che da questa settimana, in questa, io ho chiamato, mi sembra, giovedì scorso, giovedì, e lui mi ha detto in questa settimana prossima, dice, lo metto sotto, perché dice, era un po' pieno, diciamo, avevo un casino di lavoro, perché l'ho chiamato e gli ho detto, dice, guarda, mi sto liberando, dice, la settimana entrante, dice, lo prendo in mano, dice, vediamo di metterlo sotto per farlo. Ascolta una cosa invece, per portare, non so se da Roberto la chiesa da Giancarlo, per portare il 48 multi Excel a far mettere i canali, a fare quel ponte come il 48, come quello di Gianni, come quello di Pisa, insomma il circuito all'incirca è uguale. Ascolta, questo amico me lo fa in 448, se riesco a beccarlo anche domani mattina, glielo lascio. Questo è a Borore, Albino, 25 euro, allora quello di Pisa esce con 18 watt, quello che ha fatto quell'altro di Muroso esce con 20 watt. Capito, facendo perché ti aumenta anche il vatti, poi bisogna vedere come vuoi, se tu vuoi che ti aumenti il vatti a così forte. Sì, aumentare qualcosina nel vatti e mettergli questa porta nei canali, perché la polizia ci ha predisposto per il canale del 48 come quello che c'ha Gianni, no? Vedete, se questo è il 48 multi e ci ha predisposto quella come quello, da mettere i canali e se gli si può qualche cosa nel vatti. Positivo. A te glielo dico se domani si fa trovare, ma non lo so, ma tu ce l'hai già portata di mano questa cosa? Io ce l'ho già, l'amico che l'ha già portata di mano, sì. Io lo chiamo, glielo dico, se va bene io domani mattina, perché domani mattina passo, proprio domani mattina, se lui si fa trovare io glielo do. Capite? Ti faccio sapere subito. Adesso riprendi Mario, riprendi se c'è Mario o Mao, che io ti faccio questa parte e ti faccio sapere. Ascolta, scusa un attimo, ma in pratica tu lo riporti in giornata? No, in giornata lo devo prendere un altro giorno, poi devo trovare il modo di... può darsi che riesco martedì, dopo domani, mattina, può darsi che ci riesco a fare il tutto, dopo, allora, lo sai, ne parlo adesso, ti faccio sapere subito. Allora, prova. Che fa? Attenzione, Pierpaolo. Avanti, Massimiliano. Capo, dai, se ti puoi spostare da questo canale per fare quelle prove. Massimiliano, io non sono a casa, no, adesso, sono in vettura. Vabbè, dai, che parroccia. ragazza, mi ha risposto il figlio e è uscito, non so dove sia, comunque provo più tardi a chiamarlo, là. Comunque io lo posso beccare domani mattina, capito? Domani mattina, perché quando io vado a caricare il tiretto arrivo lì intorno alle 7:15, 7:30 e lui sta andando al lavoro e allora ne coincide sempre con, lo chiamano e ci troviamo sempre in una piazzola che c'è lì allo svincolo, hai capito? Per lasciargli qualcosa. E domani mi potrebbe coincidere, però devo chiamare a lui sia che ci abbia qualche lavoretto che stia facendo e per non tenerlo fermo lì, erami. Bene, carta, provo più tardi, vai, ok, ma ci sentiamo più tardi allora. Sì, però, allora, in poche parole, se io ho l'apparato, glielo posso lasciare, se non ce l'ho non posso fare nulla però. Va bene, allora, ti faccio sapere fra un po', va, fra un'oretta. Va bene, dai, se no non ci sono problemi, non ci sono, lui lo fa, capito, non ci stanno problemi. Per fare quel lavoretto sta pigliando 25 euro ed è abbastanza onesto, perché è una persona in gamba, è un amicaccio mio. Porca, ok, vai. Se ne sa qualcosa più tardi, mi fa sapere, poi magari ti avviciniamo l'apparato. È positivo, va, positivo. Andrà bene. Ma perché un amico anche non è altro, capito? È già solo quello. Va benissimo. Sì, va, ci aspettiamo dopo, magari, per quella cosa lì, dai. Allora, Massimo, di là, quel microfono mi pare che vada meglio dell'altro, però, dai. Ma per fare, quello che stavo mettendo stamattina, dai, quello che mi mancava era la modulazione. Non ho fatto niente di particolare, ho staccato il tutto dalla macchina, lo sto provando qua. Era giusto per la curiosità per vedere com'era. Vedi un po' se muovendo il capo si sente qualcosa. Signori, anche tu fa la cortesia. Vedi un po' se io sto muovendo il capo adesso, stamattina mancava la modulazione. Vedi un po' se cosa è successo. Ma non è successo niente, Massimiliano, però ho lasciato in parcheggio a Mario. Scusa, un secondo solo che poi mi sposto. Oh Mario, ci sei ancora? Io ci sei ancora? Lui mi ha spostato in cucina e ti ho sentito chiamandomi, dimmi. Passa, scusate, dai, così voi fate le prove, Massimiliano, passatene al 17 un attimino, Mario. Ciao Massimiliano, mi ha sentito, 17. Ciao Mario, buonasera, ben ascoltato anche a te, dai. E per pace, Girella? Cappa, adesso devo scendere un attimino, devo fare una cosetta, ce la risolviamo fra un paio di minuti. E va, inoltre io adesso ne passo alle 17, lo ascolto anche qua. Allora, ascolta Massimo, là, devo scendere un attimo dalla macchina, ci sentiamo fra un po', fra un decino di minuti, quarto d'ora. Lei è positivo, del palo, ci sono problemi, fai tranquillo. A dopo, ciao ciao. Cappa, ciao ciao. Comunque poi già ripasso nuovamente. Ragazzi.